Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, che ritmo straordinario e che presenza ho qui in studio oggi, una presenza abbastanza fisicamente ingombrante, devo dire anche nella sua personalità, che già si sente questa voce, anche se uno potrebbe dire oggi a Storielle questa specie di respiro internazionale. È vero, dove verrà? Da San Francisco, da New York, da Los Angeles? No, viene da Catania. Esatto. Chi sarà mai? Allora, l'indizio è un personaggio che canta, questo è chiaro. Dopodiché, altri tre aggettivi per ricominciare ad avvicinarsi alla sua persona ce li dà direttamente lui. Ci provo. Sì. Direi che indipendente potrebbe essere uno. Sì. Perfezionista, sicuramente. E per finire, sognatore burlone, va bene? Sognatore burlone, molto burlone, devo dire, perché quando è entrato, io avevo pensato di aver sbagliato ospite, è entrato Fantozzi e poi a un certo punto l'altezza mi ha fatto capire che Mario Biondi è proprio un burlone. Beh, ci provo, dai, cerco di non prendermi troppo sul serio. Allora, prima di tutto, voi sapete Mario Biondi, perché questo respiro internazionale? Perché lui canta sopra i suoi grandi successi, soprattutto in inglese, è stato definito in tanti modi la voce più nera della musica italiana, la voce black della musica italiana, il soul man bianco, cioè, tu come, a parte questi tre aggettivi, come ti definisci? Che sei, Mario Biondi, oltre a un cantautore catanese? Ma devo dire che ultimamente mi hanno anche definito, aspetta, forse mi viene anche in mente, il normanno dall'anima nera, che mi piace, perché comunque, insomma, la mia origine normanna, sicula. Dall'altezza questo si può immaginare, che una qualche discendenza, sì, ascendenza, tu, giusto? Federico II di Svevia ha lasciato i suoi segni. Papà, mamma così alti? Sì, entra. Sì. Mio padre era 1,84 m circa, mia mamma è una donna di 1,70 m, insomma. Ah, quindi per la sua generazione è molto alta, sì, no? Sì. Mio nonno era 1,75 m, mia nonna era 1,60 m, mio bisnonno... Tutti a memoria. Non li so, scherzo. Mario, sei qui con questa nuova creatura, if, il se, quando si dice senza se, senza ma, tu invece questo if l'hai voluto sottolineare. Senza se, senza ma, mi piace molto. Sta diventando un leitmotiv della politica, poi alla fine c'è un sacco di se, un sacco di ma, e molte altre cose. Ma io credo che il se faccia parte di qualsiasi cosa tu faccia, è fondamentale, è una delle condizio sine qua non. E se avessi fatto così, oppure se dovesse poi succedere, certo, così. Chissà se riesco a contattare quella persona, chissà se riesco ad avere Jacques Morellenbaum all'interno di questo disco, chissà se riesco realmente a scrivere un po' di canzoncine e a metterle a disposizione di un disco, ma soprattutto andranno bene, chissà. Bah, se andranno bene. Per ora pare di sì, dalla classifica, da quello che dice la classifica, Mario Biondi in ottima posizione, praticamente primissimi posti. Sì, da diverse settimane siamo sempre lì, insomma, nei primi cinque, mettiamola così. Quindi dicevamo, Mario Biondi è, nonostante questa impeccabile accento inglese, non quando parli, ma quando canti, sei catanese, sei siciliano. Assolutamente sì. Ecco, questa sicilianità, questo essere sicolo, in cosa si ritrova dentro di te? Ma credo in tutto, almeno in me vive... Gelosissimo, io. Miz, non ne parliamo, per cortesia, guarda. No, sicuramente sono siculo dal midollo in poi, assolutamente sono proprio... Sono sempre stato orgogliosamente siculo, perché poi certamente. Sono, avendo vissuto tanto tempo qui a Nod, devo dire che, insomma, ho anche subito qualche angheria, no, da terrone. Ah, sì? E poi io, cioè, ti immagini, io da bambino ero biondino, platino, con gli occhi azzurrini. Con gli occhi azzurri. Cioè, quindi... Dove li hai lasciati i capelli? C'è una domanda di riserva. Ma Mario Biondi è personaggio così, è così solo, così jazz, che se tu avessi avuto dei capelli forse non sarebbe stato. Devo dire, non tanto... mi sento neanche più tanto solo, visto che comunque ho un sacco di compagnia ultimamente. Effettivamente, sei in ottima compagnia. Che bella battuta che ho fatto. Soprattutto Roberto, sono, in questo album, If, sei in ottima compagnia, no? Perché uno dei brani te l'ha scritto Something That Was Beautiful, te l'ha scritto il grandissimo Bacharach, il più grande compositore. Grande Bacharach. No? È vero che tu lo hai incontrato quando aprivi i suoi concerti concerti, sì, in Italia, sì, e scoperto che da dietro le tende, dietro, quindi ti incoraggiava. Lui stava sulla quinta di destra e mi guardava fisso, e poi appena, non so, io accennavo a una spinta vocale piuttosto che a una svisa, come si dice anche in gergo. Traducici, la svisa era... Cioè, non so come fanno quelli che cantano solo, no? Che so, how do you do, let's see. Yeah, man. Oh, man. Wonderful. Yes. Okay. You're a great man. Come on. Ah. Uscendo dal... venendo giù dal palco, mi ha anche... da amico, insomma, da compagno, mi ha piazzato anche un cazzotto stomaco. Nelle costole. Sì, mi ha detto, yeah, man. Che tu hai retto bene, fisico, insomma, si presta. Sì, lui è piccino, però devo dire, ci vorrei veramente... Ecco, lui mi ha fatto pensare, si può arrivare a 84 anni in perfetta forma? Burt Bacharach, assolutamente sì. Forse sarà, insomma, la musica sarà... Dice che potrebbe essere per te un ingrediente ottimo questo di mantenerti in forma. Ma io credo che la musica, se la sposi nella maniera giusta, si può essere un bel elemento. E tu l'hai sposata molto precocemente, perché... ispirato dal tuo dentro. Babbo, che è Stefano Biondi, no? Sì, che esatto. Era nome d'arte anche il suo? Sì, sì, anche il suo era un nome d'arte. Tu è Mario, sì, ma Ranno? Ranno. Ranno. Sì. Anche il cognome longobardo di origine. Infatti. E invece Biondi poi, per amore di tuo papà, l'hai preso, no? Assolutamente, sì, per cercare di dargli onore fino a che è possibile. Lui, cantautore siciliano, è vero che l'inno di Catania... Sì, diciamo che non è un inno inteso come inno, che so, solenne, che intendiamo, tipo quello italiano. No, è diventato, però... ecco, poi è stato man mano trasportato nel tempo come la canzone catanese, la canzone siciliana per eccellenza, ecco, nei piano bar piuttosto che nelle come piazze. Come faccio, l'accenneresti due notte? Ulissica, finissi presto sta nottata, caruna spazio, meduluri e nenti più. Che mi ricorda i tuoi carizzi e li vasati, torna, che me vita sei tu. È così. Magnifico. Poi veramente un vero cantante, interprete, poi è cantautore Mario Biondi, si riconosce anche dal poter improvvisare così davanti a un microfono. E... Quindi dicevamo, hai iniziato così presto, tu già a 12 anni, se non sbaglio, cantavi in chiesa, sì, gospel, sì, sì. No? Cantavo i canti gregoriani, cantavo le canzoni classiche nostre, certo, di chiesa. Se stiamo parlando di, insomma, qualche anno fa, non adesso tanti, non esagero. Però non è del 1971 Mario Biondi, esatto, esatto. Ancora però, giovincello. Insomma, avevo 12 anni, quindi sono passato. Senti, ma tu hai avuto questo passaggio, io immagino, no, gli adolescenti maschi, la voce è la cosa più improvvisamente. Tu già a 3 anni avevi questa voce, improvvisamente no, a 12 anni diventata. Anzi, soffrivo. Quando suonavano il citofono, magari andavo a rispondere io, quando avevo la voce bianca ancora, quindi non so, c'è suo marito? Come mio marito? Non lo sono il figlio io. Mi faceva arrabbiare. E poi, vabbè, dopo l'età della pubertà, sì, insomma, il periodo dell'ormonauta. Che ti è successo? È cambiata la voce, è successa questa cosa qua. Faccenda. Sì, è diventata la voce un po' più grave. Quindi ti ha cacciato dalla chiesa, ti hanno detto, no, qui la voce bianca, la voce nera, la bianca è diventata proprio nera questa e voce. Poi rimbombava troppo in chiesa. Senti, e che infanzia hai avuto tu a Catania, in Sicilia, con i tuoi genitori? Beh, la mia infanzia è stata equamente distribuita fra Catania, Reggio Emilia, e quindi ho vissuto fino alla prima media a Reggio Emilia, poi dalla seconda media hai in poi... Hai un po' emiliano, effettivamente. Ma poi, vuole anche ben vedere. Eh sì, perché ho fatto praticamente fra una cosa e un'altra, sono 30 anni, insomma, che frequento l'Emilia Romagna. E, insomma, i compagnetti, gli amici, i meno amici, i nemici, i cattivi... Ma come parli, eh? Non te capisco. E vabbè, insomma... Storielle. Storiacce. Eccoci ancora insieme, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Roberta Giordano con voi e con me. Vorrei che si ripresentasse con un altro... Fai uno stacco, un qualcosa, un... Cioè... Ta-da! Così ta-da, dici, ta-da, no? Uno dei tuoi, un pezzo, un inizio di qualche... Una delle canzoni. Sì, del tuo nuovo album, If. If you really love the life you live and nothing's wrong with liberty, Questo Mario è proprio Biondi, Mario Biondi, proprio lui, non ce n'è. Dicevamo la voce black, la voce più nera della musica italiana, di definizioni avute tante, insomma, però lui... Me ne dicono diciamo, di tutti i colori, eh? Di tutti i colori, e si muove con disinvoltura, vedete, cioè, qualche imitazione, mi piacerebbe adesso scherzare con lui su qualche imitazione, però dobbiamo anche parlare di cose molto serie. Tu hai bambini, figli? Sì, ne ho qualcuno. Ah, oddio. Ne ho sei. Una domanda? No, non è vero. Sì, ho sei bimbi. No. Sì, sì. Mi risultava che ne avessi qualcuno, ma non sei. Ne ho sei. Ero rimasto un po' indietro, forse allora col calcolo. Caspita. Mario Biondi, sei figli. E come li educhi tutti questi bambini? No, sono tutti maleducati, sì. Mi urlano dietro anche. No, sono so che li sgridi quando tengono per esempio il rubinetto aperto a lungo per una tua coscienza civica, anche ecologica. Anche con la carta igienica mi arrabbio, non so che non sono discorsi da saranno, fare no, troppo ma a casa tua immagino i chili di carta andranno con sei no, figli. Però insomma bisogna anche usarla con parsimonia, nella maniera giusta, perché sennò poi insomma si combinano anche dei danni idrici importanti. Mario Biondi, contate che poi è del 1971, quindi un giovincello, ma già molto precoce anche in questo. L'abbiamo detto anche nell'approcciarsi alla musica, la sua passione. Già da bambino seguiva suo padre Stefano Biondi, cantautore siciliano, poi cantato i canti gregoriani in chiesa, voce bianca, poi con la pubertà è diventato una voce nera. E hai fatto però una lunga gavetta tu, Mario, no? Sì, direi di sì, ma poi non è neanche finita, perché comunque questa è una sorta di gavetta ancora. Ormai sei ai primi posti nelle classifiche anche col tuo album If, ma già con il tuo successo, no? Era del 2004 la svolta, mi sì, sembra. Sì, This Is What You Are. E poi nel 2006 invece è nato Handful of Soul, quindi l'album, seguito l'anno dopo poi da un live che si chiama I Love You More. Mm. E dopo, insomma, nel ma 2009 nasce questo If. Ma è vero che il brano della svolta, This Is What You Are, era previsto per il mercato giapponese, perché è proprio giapponese? Ma intanto perché hai una in simpatia Giappone, tu per il Giappone, sushi, una cosa io no, adoro il sushi. Anche io adoro il sushi. Mi piace molto Ikura e Toro. E diciamo che era un sound, un genere di musica che era piuttosto appetibile per il mercato orientale. E quindi pensammo di fare questa cosa un po' sulla scia dei Pizzicato Five, piuttosto che dei Coop o dei Saint Germain, insomma. Comunque pensando che potesse andare verso un mercato di quel genere lì, e poi visto che dall'Inghilterra invece cominciarono ad arrivare degli interessi da parte di Norman Jay della BBC One. DJ, no? È famoso DJ, DJ inglese. DJ guru di molti altri DJ nel mondo. Qui ha acchiappò il tuo disco, così? Sì, ha acchiappato il mio disco, l'ha cominciato a suonare, a mettere in Heavy Rotation. Questa grossa programmazione ha fatto sì che il brano arrivasse addirittura primo nella sua playlist. Quindi cominciò a diffondersi in tutta Europa la tua voce. Sì, sì, sì. Lui cominciò a scrivere Sinatrian Voice, a new crooner from Italy. Nuovo crooner, effettivamente. Sì, no? Crooner, questo era un po' il titolo che mi veniva più DJ, pato. Appunto, di Frank Sinatra. Sì, Sinatrian Voice, crooner. E da lì, infatti, nello stesso periodo, insieme ad Alessandro Magnanini, facemmo quest'altro progetto che si chiamava Crooner Clan. È un brano molto carino, fra parentesi, che è andato a finire proprio in Giappone, non è mai arrivato in, ah, sì? In Europa. Caspita, questo ce lo potevi portare però dal Giappone. Poi, un'idea. Si può accennare minimamente com'era? O tu... Aspetta che me lo devo anche ricordare. Anche in giapponese lo puoi 2000... cantare, se vuoi. Com'era? Oh, mamma mia. Tanta è la produzione ormai. Please listen to my please. I can stand the light in the staring night. Magnifica, com'è possibile che non sia arrivata in Italia? Upon a star, wisdom time right here. Da, da, da. Non me la ricordo tutta, però insomma. La recupererai in una delle tue idee. For once in my life, I just want to be alone. So pretty lady, don't try to hang on. Just do what you need. Da da da da da. Mario Biondi dal vivo, E comunque insomma questo progetto si chiamava Crooner Clan ed è sparito in Europa, io non l'ho mai visto. E invece mi è arrivata ultimamente una compilation appunto giapponese, quindi con tutte le scritte intraducibili, sì. Però c'era in mezzo a tutti questi geroglifici, c'era questa cosa che ho scritto Crooner Clan, che stranamente prese un punto esclamativo alla fine per un errore di stampa, sì? Ed è rimasto così, Crooner Clan, per dire caspita, questo qui è uno che Crooner mica Clan si scherza. Però In If, dicevamo, sei in buona compagnia, un brano sono 15 brani, quindi è stato anche generoso, insomma, c'è parecchia roba, parecchio contenuto. Ti dirò, ne avrei messi altri 5, però mi hanno detto non ci entrano. Infatti, devi fare doppio album, se sì. No, poi, no? Nessuno ti ha mai criticato per il fatto che sei italiano, cantautore italiano, canti in inglese. È vero che sei immediatamente esportabile. Tendenzialmente no, perché il mio nazionalismo, si può dire, o è un po' troppo pesante? Perché? No, perché? Amor di patria? No, non si vuole. Non ho mai nascosto questa mia italianità, io mi sento molto italiano, infatti poi mi diverto ad imitare tutti i dialetti possibili. Abbiamo sentito qualcuno dal siciliano toscano, dal giuliano, piuttosto all'emiliano, piuttosto che o calabrese, un po' tutti, cioè voglio dire, napoletano. E quindi io fondamentalmente mi dedico a una scrittura di brani, a un arrangiamento, alla costruzione di un album in inglese, ma che non vuole togliere qualcosa all'Italia, ma magari c'ha quasi la presunzione di poter aggiungere, cioè tipo essere uno di quelli che prova a essere italiano all'estero. E parla con gli altri poi. Quindi questo è If, abbiamo detto tutto in inglese, sono 11 inediti e 4 cover, no? Sì. Tra cui c'è anche quella di Esse Domani. Di Esse Domani, poi sentiremo. C'è questa bellissima Serenity, che era all'origine Sudden Senility, scritta da Herb Geller, sassofonista tedesco, jazzista eccezionale, fantastico, un altro ottuagenario oltre a Bert Bacharach. E la quotidianità invece di Mario Biondi in generale, di cosa è fatta? Dipende, perché poi il mestiere che faccio mi fa vivere delle quotidianità completamente agli antipodi, una diversa dall'altra. Quando riesco a stare fermo un po' a casa, il mio sport preferito, un po' si vede, è farmi ballare sulla panza dai miei figli. Sto imparando. Così imparano il ritmo, insomma. Sì, sì, no, si siedono sulla pancia, non so, Ray proprio si appoggia, so, boom, boom, boom, e mi balla. Lui, quello è il suo sport preferito, io sto sotto. Ray, da buon pungible, sì. Da Ray Charles, tu sei stato anche spalla di Ray Charles. Sì, no? Sì. Mi è capitato in un'occasione a Taormina di star lì vicino. Sì. Qual è stato l'incontro più folgorante della tua vita finora? Devo dirti, più folgorante a questo momento è, devo ricitare la tua grande passione, Bert Bacharach. Lui è stato fulminante, assolutamente. È una cosa invece che dei tempi attuali, delle cose che vedi più spesso, più di frequente, con quelle che fai, che proprio ti fa incavolare, che proprio l'aggressività in macchina. Non sopporto quelli che mi guidano dietro modello filo tranviere. State a distanza di sicurezza, vi prego. Grazie. Appello inviato via etere da Mario Biondi. Allora, in chiusura, Mario, una volta che hai espresso, insomma, questo tuo desiderio, qua, questa che vedi però è la lampada di Aladino, qua, un desiderio serio che tu vorresti esprimere o divertito, insomma, cosa chiederesti? Tanta salute per la mia famiglia. Mi sembra, no, che sia un ottimo desiderio questo. Direi che è fondamentale. E come ci saluti? Sono stato molto bene con voi. Molto bene con te, Roberta, e vi ringrazio per questa giornata bella, calorosa, molto aperta e molto di viaggio. Allora, buona continuazione, Mario Biondi. Grazie, a Ciao. Te, a voi. Oh, oh, oh.